Italia in controluce. 13 e 35 minuti, buongiorno da Alessio Maurizio, gentili ascoltatori, è il momento su Radio 24 delle storie di cronaca, grandi e piccole, i fatti, i personaggi, a volte le curiosità, le eccellenze che raccontano la nostra Italia in controluce. Conoscere la mafia attraverso le sue parole, parole che dicono l'indicibile, che promettono, ingannano, a volte minacciano. Un lessico, quello della mafia, che inevitabilmente ha le sue radici nella violenza dello stile di vita mafioso. Per la prima volta uno spettacolo teatrale fatto da pizzini e verbali di interrogatori. Il racconto di Raffaella Calandra. A meglio parola è chi da conserisci. La chiave di volta la forniscono direttamente loro, ufficialmente professano il silenzio, secondo la massima di Totò Riina, ma in realtà parlano gli uomini d'onore, parlano di un linguaggio dove le sillabe e gli inganni si combinano come le consonanti e le vocali, e tutto è messaggio, perché in Cosa Nostra, disse un altro vecchio boss, Antonino Calderone, le cose non hanno mai un solo significato. Io sono stato fatto uomo d'onore che ero molto giovane. La riunione per affiliarti è come una grande festa alla quale partecipano tantissime persone. Con un ago ti pungono il polpastrello di un dito e poi ti danno in mano la santina con la Madonna dell'Annunziata, la protettrice di Cosa Nostra. La macchiano col tuo sangue, le danno fuoco e tu te la passi da una mano all'altra e ripeti come carta ti brucio, come santa ti adoro. Come brucia questa carta possa bruciare la mia carne se un giorno tradirò la Cosa Nostra. La scena è una scatola nera dove sullo sfondo di immagini in bianco e nero scorrono decenni di parole d'onore, titolo dello spettacolo teatrale con la regia di Manuela Ruggero, tratto dai taccuini di Attilio Bolzoni, cronista che da anni ascolta i mafiosi raccontarsi con i loro silenzi, le loro smorfie, i loro codici meditati e nascosti dietro le maschere di uno, nessuno e centomila, perché i mafiosi parlano di una lingua compresa perfettamente da tutti gli altri figli di quell'isola plurale, in grado di annacarsi, muoversi, cioè restando fermi, o mandare minacce formulando auguri. E in questa logica Totò Riina, seconda elementare, spiega perché Buscetta avesse consegnato a Giovanni Falcone la chiave per entrare nei segreti della cupola. Tommaso Buscetta ha viaggiato troppo, è stato a Milano, è stato a Torino, è stato in America, è stato in Brasile. Vette un mondo e ci scattò il cervello. Ha visto il mondo e gli è scoppiato il cervello. In una continua mescolanza di finzione e realtà, dove le scicchitiate, le abbuffate si tramutano in delitti e gli atti di fede in esercizi di potere, tutto è inganno nelle parole d'onore. La rovina dell'umanità sono certi film. Film di violenza, film di pornografia. Se per esempio il pentito Totuccio Contorno avesse visto Mosè invece del Pacino, e non avrebbe calunniato nessuno, ed io non sarei qua. All'inizio fu la voce, come questa di Michele Greco, il Papa, o come quella di Luciano Ligio, che ebbe a dire «Apprezzo Socrate perché come me non ha scritto niente». Poi le necessità della latitanza trasferirono gli ordini, le comunicazioni e le regole dei boss all'inchiostro dei pizzini, come quelli dell'ultimo superlatitante Matteo Messina Denaro o prima quelli di Bernardo Provenzano. Con il volere di Dio ti prego di essere calmo, retto, corretto e coerente. Le estorsioni sono una cosa che vanno benissimo a Palermo, perché la gente è molto educata nel pagare. Hanno quella mentalità per stare tranquilli. Via Roma pagano tutto indecentemente, a partire dalla stazione centrale fino ad arrivare al primo semaforo. Baccialle non paga perché è considerato il budget della polizia. Rione Capo pagano panificio Puccio, farmacia Votturno, ganci sedie, paga la parrucchiera della Traversa e paga la casa di appuntamento di una certa Giulia. In questa lingua, dove ogni parola ha un suo doppio fondo, il pizzo diventa così la messa a posto e gli affari di mafia, il bene comune, ultimo inganno degli uomini d'onore, passati dai tempi in cui dicevano che la mafia non esiste a quelli della mafia nelle fiaccolate dell'antimafia. È una mafia che ha scoperto il valore dell'antimafia. L'antimafia è diventato un capitale anche per Cosa Nostra. Il mafioso antimafioso. Il massimo. Italia in controluce. E cambiamo decisamente pagina. Ora parliamo di una storia, la storia di un incontro. Un incontro tra cultura italiana e africana, ma anche tra persone. Un ragazzo del Camerun e un meccanico di Varazze. O più semplicemente questa potrebbe essere la storia di uno stage particolare. Come dice il detto cinese, invece di dare il pesce all'affamato, insegnali a pescare. Ascoltiamo Andrea Ferro. Charles Anfu viene dal Camerun, ha 23 anni, è un fisico atletico e soprattutto un sogno, diventare un bravo meccanico ed insegnare a riparare le auto a chi nel suo villaggio vorrà imparare un mestiere. Da qualche settimana è sulla buona strada, l'ha imboccata grazie alla sua passione che si è intrecciata all'interno di una catena di solidarietà che dai missionari si è dipanata fino alla Riviera Ligure di Ponente. Sino alla fine di maggio a Varazze, in provincia di Savona, il giovane camerunense lavorerà accanto a Gino Ratto, titolare di un'officina meccanica che ha accettato di impiegarlo per questo stage che valica i confini tradizionali e propone concretamente una prospettiva di aiuto e di crescita per chi vive nel sud del mondo. Ecco il racconto di Charles Anfu, che al suo paese ha lasciato una moglie e un bambino di 3 anni. La storia è un po' lunga. Sono nato da un paese al sud del Camerun, vicino al confine del Gabon, Guinea Equatoriale. E si vedeva tante macchine sempre rotto e lì mi sono detto, se faccio un giorno la meccanica, forse posso trovare l'impegno. E così quando mi sono lanciato a imparare la meccanica, fino adesso che è arrivato questo progetto di venire in Italia a fare una formazione un po' più pratica, un po' più grande di quello che ho fatto prima. Ma prima di sbarcare nella Riviera Ligure, com'è stato possibile sviluppare la passione per i motori? Ho fatto un corso in Camerun per due anni, poi ho fatto un stage da un'officina a Yaoundé, la capitale del Camerun. La tecnologia, da noi non siamo indietro, imparo tante cose. Io per esempio le macchine di qua non le avevo mai lavorate, toccato neanche. Qui ho la possibilità di toccare tutte queste macchine, cioè imparo tanto la tecnologia e le nuove diciamo meccanica. E allora qual è il suo sogno una volta rientrato in Camerun? Essere qualcuno, di avere un po' più di esperienza e fare imparare agli altri, forse un'officina. Gino Ratto è il meccanico di Varazze che sta insegnando un mestiere a Charles Anfu. Allora, Charles è arrivato il primo di marzo ed è un anno che stiamo anch'io, diciamo in questo caso anch'io, che stiamo cercando di farlo venire su, e insomma dopo molte, non so, la burocrazia com'è, questo, quell'altro, insomma siamo arrivati al dunque e adesso Charles è qui e sta qui fino al 29 di maggio. Nel frattempo sta lavorando sui motori, su tutto quello che è la meccanica, e sta imparando bene, ha molta voglia di imparare, ci sta mettendo tutto quello che può mettere, ce lo mette. Quando poi tornerà indietro, quando tornerà di nuovo al suo paese, dovrebbe tornare con un bagaglio di esperienza abbastanza. 3 mesi non sono tanti, ma qualcosa fanno, ecco. E questa bella storia di Andrea, raccontata da Andrea Ferro, ci racconta come aiutare le persone che vengono da paesi poveri, aiutarle a vivere meglio nel loro paese è possibile, ma bisogna darsi da fare, ci vogliono iniziative concrete come questa di Varazze. Bene, è tutto per questa edizione d'Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Carmelo Laruccella in regia quest'oggi. Vi ricordo i nostri indirizzi, potete scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure commentare i nostri servizi lasciarci le vostre segnalazioni anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre alle 6.30 e alle 13.30. Buona giornata da Alessio Maurizio.